Alerem, sì. Freestyle dedicato alla gente della radio, a tutti gli ascoltatori, contro ogni tipo di censura. Vibre positive che ti entrano nella mente. Radio Blackout, la radio indipendente. Radio Blackout, dagli anni 90. Radio Blackout 105-250. Onde sonore, sotto la mole. Radio Blackout è quello che ci vuole. Radio Blackout a qualcuno fa paura. Certo non la ferma, manco la censura. Radio Blackout, parole ribelli. Fra la mia gente, in mezzo ai miei fratelli. Radio Blackout, su tutta la città. Radio Blackout che racconta la realtà. Radio Blackout, ancora una volta. Radio Blackout, la voce della rivolta. Io in culo al Chiampa.